9 in punto. Le 9 e 9 minuti, di nuovo buongiorno gentili ascoltatori da Simone Spezia. Come già annunciato prima, oggi ospitiamo il segretario del PD e candidato alla presidenza del Consiglio per il centrosinistra, o tecnicamente capo della coalizione di centrosinistra, Pierluigi Bersani. Ci chiedete perché ospitate Bersani e non gli altri. Non vi preoccupate, la campagna elettorale è appena iniziata, anzi quasi non è nemmeno iniziata, è lunga, ospiteremo tutti, state tranquilli. 800 24 0024 per intervenire in diretta, 9 in punto è l'hashtag su Twitter per farci delle domande. E però inizio io, segretario. Inizierei dai conti pubblici. C'è una frase che mi ha colpito molto, che ha detto in un'altra intervista, se non erro a Sky TG24, parlando di polvere sotto il tappeto. Dobbiamo andare a vedere, quando arriveremo al governo, e se arriverete al governo naturalmente, se c'è polvere sotto il tappeto. Avete timori che il governo abbia truccato i conti? No, non è questo. No? Ho detto andiamo a vedere se c'è un po' di polvere sotto il tappeto, nel senso di vedere se, diciamo così, le spese che si rivelano obbligate nel 2013 prevedibilmente sono tutte coperte. Non è che ragioniamo, diciamo così, in modo generico, ecco. Siamo gente che conosce abbastanza le cose. Per esempio, noi abbiamo votato il finanziamento delle missioni all'estero dandogli copertura fino a settembre. 9 mesi non sono 12 mesi. Non so bene, in ragione dell'andamento dell'economia reale, se noi abbiamo dato piena copertura alla questione degli ammortizzatori, in deroga in particolare. Ci possono essere questioni, per esempio l'assorbimento via via sulla questione già dell'anno prossimo di una fascia di esodati. Insomma, ci sono delle cose sulle quali... Poi naturalmente ci sono altre cose da guardare, perché l'andamento dei tassi, per esempio, adesso è più confortante, no? Ecco, su l'IMU si è incassato di più di quel che si pensasse. E quindi poi c'è da vedere le previsioni di crescita. È un po' ottimistica la previsione che ha fatto il governo? Può anche darsi di sì, tuttavia... Io sono dell'idea che se c'è una riduzione del PIL, continuare a inseguirla con delle manovre non va bene, perché poi ci consegna ulteriore recessione. Quindi credo che sia saggio dire, attenzione, non facciamo promesse a vanvera, cerchiamo di capire che noi abbiamo bisogno di tenere la barra, ecco, ma in forme tali da non deprimere ulteriormente l'economia. Questo deve essere l'asse logico. Dopodiché si consentirà che chiunque arrivi lì a governare, fra i dati Istat di febbraio e marzo e una rivisitazione dell'andamento delle cose, possa dire, diciamo, fare affermazioni più precise. Chiaramente, lei sembra escludere in questa risposta che mi ha dato l'ipotesi, almeno per il momento, almeno stando ai dati che abbiamo fino adesso, di una manovra correttiva. No, io non vedo perché dalle cose che ho detto nessuno può arguire che io ho in testa che ci voglia una manovra. Ecco, sto dicendo, non facciamo per favore ragionamenti raffazzonati su un tema delicatissimo, per la vita del Paese. Quindi non vedo a oggi nessuna conclusione che dica ci vuole una manovra. Sto dicendo, attenzione anche a raccontare che noi siamo a posto, che siamo, ecco, perché siamo usciti dal rischio di precipizio. Tuttavia abbiamo ancora una serie di problemi. Il punto sarà come affrontarli dando un occhio all'economia reale, senza deprimere ulteriormente l'economia reale, ma cercando di innescare qualche elemento positivo. Quindi un'eventuale correzione, scusi, così arriviamo al punto, non la esclude né dice è necessaria, insomma, non è ancora il momento di dirlo. Assolutamente. Io sono portato a pensare che un punto d'equilibrio si troverà senza interventi, diciamo, particolarmente. Tuttavia un elemento di cautela ci vuole. Io dico poi, se c'è qualche margine, sappiamo dove metterlo. Sappiamo un sacco dove? Di posti. Dove? Insomma, i margini, sognando che ci fosse qualche margine, prima di tutto bisogna abbassare un po' la pressione fiscale, a partire, secondo i margini che hai, a partire dal lavoro, dalle pensioni, cioè dall'IRP sui redditi più bassi, perché i consumi sono stremati in questo momento. E l'altro margine deve usarlo per fare un po' di investimenti e per aiutare gli investimenti di chi dà lavoro. Credo che sia evidente che noi abbiamo questo, diciamo, doppia priorità. Abbiamo visto, a proposito, visto che la questione fiscale ha iniziato ad affrontarla lei, vogliamo entrare più nel dettaglio, abbiamo visto i segnali da parte della Banca Centrale Europea che dice, insomma, che nell'ultimo periodo fino al 9 gennaio si è registrata, se non proprio una fuga di capitali, comunque un deflusso di capitali dal nostro paese. Legato sicuramente all'incertezza politica, ma probabilmente c'è anche qualche timore da parte di chi manovra questi capitali che venga qualche stretta dal lato patrimoni, presumibilmente, che è sempre il rischio che si è paventato, no? Si è detto, cioè, parliamo di patrimoniale perché... No, per amor di Dio. Tanto queste cose sull'incertezza, io francamente non le capisco. Cioè, in tutto il mondo si vota. E in nessun posto al mondo si sa il risultato prima, o mi sbaglio? Quindi non ci si permetta di dire che un grande paese democratico è nell'incertezza. Si va a votare e ci sarà un governo stabile, punto. Dopodiché questi andamenti dei capitali, sa, io qui ho una teoria che tutte le scuse sono buone, tutti i pretesti sono buoni. Per autogiustificare o giustificare il venir meno a volte, diciamo, di una responsabilità, perfino morale, bisogna pagare le tasse nel paese in cui la ricchezza si forma, bisogna dare una mano al proprio paese, non bisogna dimenticare chi non può muoversi, che non può andarsene, i problemi, la povertà è stanziale, la ricchezza è mobile. E questo è un guaio e richiede una miglior regolazione. Infine, io ho detto ormai in tutte le lingue e spero che si sia visto che mediamente, insomma, le cose che dico le faccio. Io non credo affatto una patrimoniale. Noi abbiamo già una patrimoniale sugli immobili. Si chiama IMU. Io intendo, come primo approccio a questa patrimoniale, sugli immobili, che ci sia una maggiore progressività. Questo intendo. E cioè si alleggeriscano le condizioni più deboli. Per quel che riguarda la restante parte dei patrimoni, di tipo finanziario e così via, io non intendo affatto concepire una patrimoniale, perché penso che il nostro problema in quel caso sia, diciamo, la tracciabilità. Questo penso. E quindi penso che l'operazione da fare sia un'operazione di tracciabilità verso una Maastricht della fedeltà fiscale. Non voglio far Robespierre, non voglio far Saint-Just, voglio che l'Italia arrivi in Europa anche in termini di fedeltà fiscale. Ci arrivi gradualmente, ma arrivi lì se vuole essere in Europa. Punto. Questo è il programma del centro-sinistra in termini di fiscalità e in termini di patrimoniale. Sul tema della fedeltà fiscale, tra poco voglio ritornare anche per parlare di questo che noi abbiamo definito, anche da questi microfoni, questo povero orfanello che è il redditometro, perché a questo punto pare che sia figlio di nessuno. E però voglio tornare sul tema dell'IMU e approfondirlo, perché nei giorni scorsi sono circolate non solo indiscrezioni ma anche dichiarazioni ufficiali da parte vostra sulle ipotesi che state facendo. Lei diceva un innalzamento per l'IMU per i patrimoni immobiliari sopra il 1,2-1,5 milioni più o meno, mi sembra di aver capito. Allora, valore catastale o valore, perché è rilevante? Allora, questo. Noi stiamo poi naturalmente... andare nelle tecnicalità, è chiaro che per esempio quando per dirle in due parole si mettono delle soglie, si dice già un'inesattezza, perché ci vuole un progress, non è che uno che ha un euro in più o in meno una certa soglia deve prendere la mazzata e l'altro essere esentato. Quindi stiamo parlando, diciamo, di paletti di orientamento. I paletti di orientamento per noi sono quelli di andare ad esentare, insomma, l'IMU fino ai 400-500 euro e ricavare, diciamo, necessario per coprire questa esenzione da una progressività che noi vediamo legata all'affiancamento del meccanismo IMU a un'imposta personale su grandi patrimoni immobiliari. Dice, quante cose vuol dire grandi patrimoni immobiliari? Allora diciamo 1.300.000, 1.500.000 a riferimento catastale, e quindi sappiamo bene a valore di mercato, che è una cosa ben diversa. Questi sono gli assi sui quali ragionare, poi ci sono le tecnicalità di queste cose. Io vorrei approfittare per dire una cosa. Io, se tocca a noi, stavolta il governo deve dare l'asse delle decisioni, ma le commissioni parlamentari devono avere un loro ruolo. Intendiamoci, perché noi abbiamo svilito troppo il ruolo del Parlamento. Io ritengo che il governo deve mettere la barra. Dopodiché c'è una funzione del Parlamento che può essere svolta in modo rapido, efficace, secondo lo strumento che si usa, che può avere la possibilità di avere orecchio, diciamo così, al meglio su situazioni concrete, su esigenze che la popolazione, diverse situazioni possono portare, e quindi affinare le misure e le proposte. Approfitto per dirlo, ma questo vale in tanti altri campi, perché noi in questi anni abbiamo, come dire, abbiamo avuto un'immagine di quello che può essere il ruolo parlamentare che è totalmente negativa, e non possiamo permettercelo, perché non c'è nessuna democrazia nel mondo, dagli Stati Uniti alla Francia, alla Germania, che non riconosca un ruolo del Parlamento efficiente e rispettato. Noi dobbiamo arrivare lì. Capisco che è un po' controcorrente la cosa che dico, ma attenzione, che le democrazie se no non funzionano. Questa è una questione che tra l'altro ha segnalato in passato anche il Capo dello Stato, stigmatizzando la decretazione d'urgenza, alla quale però hanno fatto ricorso tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, compreso il vostro. In attesa di cambiare regolamenti parlamentari, che quello che ho detto prima comporta le riforme, il numero dei parlamentari, regolamenti e così via dicendo. Certo, a volte si spinge sulla decretazione. Il governo Monti, con l'aiuto di tutti, ha battuto ogni record, intendiamoci, qui d'altronde eravamo in emergenza, eccetera. Ma ci sono altri meccanismi, le leggi delega, per esempio, no? L'utilizzo dei decreti delegati, che è molto interessante. Bisogna studiare i regolamenti e le corsie preferenziali per la discussione parlamentare su atti del governo che pretendono rapidità di decisione. Cioè, noi dobbiamo mettere assieme rapidità di decisione, ma anche possibilità di discutere. Io giro per l'Italia e sento poi dai cittadini, dai pensionati, dai piccoli imprenditori, lamentarsi delle palesi irrazionalità di quel comma o di quella norma. Perché? Perché non c'è stato tempo e modo di discutere, di approfondire. Ecco, quando tu devi decidere in notturna, possono scapparti alle cose, improvvisamente un cittadino si alza e dice: ma chi è quel pazzo che ha scritto questa norma? Oh, allora cerchiamo di mettere ordine un po' nella produzione legislativa, perché poi le ricadute sulla vita reale sono cose serie. Vincenzo ci chiama dalla provincia di Rimini. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, salve. Prego. Buongiorno, io vorrei chiedere al segretario Bersani come intende lui, insomma, la sua alleanza, affrontare la questione delle liberalizzazioni. Conosciamo già la sua opinione in merito, però viste le grosse difficoltà incontrate dal governo Monti in tema di liberalizzazioni delle farmacie, taxi, ordini professionali, ecco, volevo sapere, ero curioso di sapere come intendono superare questi scogli posti dalle lobby e se intendono portare avanti il discorso sarà iniziato dal segretario Bersani con il governo Prodi del 2006. Grazie. Ma io rispondo volentieri, ovviamente approfittandone per esprimere un concetto. Io credo nel mercato regolato, rifiuto il liberismo, perché il liberismo è il mercato che pretende di comandare sulla democrazia. Amo le liberalizzazioni perché penso che in quel caso è la democrazia che dà delle regole al mercato contro posizioni dominanti, contro monopoli, contro rendite. Questo è l'assunto di fondo. Penso che poi nei mestieri e nelle professioni un governo deve stare con chi bussa la porta e non con chi la tiene chiusa. Abbiamo un sacco di giovani che hanno bisogno di muoversi, quindi si lavorerà così. In quali campi? In tutti i campi. C'è da fare qualcosa in tutti i campi, in alcuni campi molto, in altri campi un po' meno. In tutti i campi, quindi stiamo parlando del tema energetico, del tema delle professioni, stiamo parlando del tema dei farmaci, certamente, delle assicurazioni e così via dicendo. Dopodiché, sulle misure concrete, io ho imparato, caro ascoltatore, che cosa vuole? Prima bisogna farle, poi bisogna dirle. A proposito di modi per superare poi però, segretario, passano dal Parlamento, cioè uno le fa dal governo, poi passano dal Parlamento. Ma no, e non le è detto. Acqua, io, per no. esempio, ne ho fatte di pesanti. Se pensiamo, non so, ricordo, no, dico una sola, cioè la riforma del commercio, dalla sera alla mattina abbiamo abolito le licenze, i ricorsi abilitanti, le tabelle, tutto qua, sbaraccato tutto. E era una legge delega, un decreto delegato, e devo dire che il Parlamento, la maggioranza di centro-sinistra, ha tenuto su questa cosa. E anche perché penso, francamente, insomma, c'è un tema politico. A me chiedono la stampa internazionale, si comincia ad arrivare, la curiosità, eccetera, dice: ma com'è che queste cose in Italia le fa la sinistra? E io gli dico: guardate, che capisco la vostra domanda, capisco che non vi risulti questa cosa, ma in Italia ha una sua storia, cioè la destra in Italia non è mai stata liberale. È sempre per ragioni storiche, è stata statalista, corporativa, eccetera. È toccata alla sinistra imparentarsi con dei temi liberali. E non c'è dubbio che liberalizzare di sinistra in questo paese c'è poco da fare per ragioni storiche. E quindi noi di sinistra, di centro-sinistra, dobbiamo saperlo, che la nostra vocazione è una vocazione sociale e liberale. Punto. È la storia d'Italia questa qua. Paolo ci chiama da Ferrara, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Bersani. Buongiorno. Io volevo velocemente farle due domande. Io vengo dal centrodestra, sono stato deluso, eccetera, eccetera, ma però lei mi deve spiegare perché io dovrei votare centro-sinistra quando non è stato in grado una volta che è caduto il governo Berlusconi, di sostituire il governo Berlusconi con un proprio governo, e invece ha preferito far togliere le castagne dal fuoco da Monti, con il quale adesso avrà anche dei rapporti. Questa è la prima domanda. Seconda domanda: perché invece di parlare sempre di IMU, di tasse, non fate rientrare i capitali dall'estero con una tassa agevolata del 25-30%? Meglio pagare il 25-30% di qualcosa che lo 0% di nulla. Io sto pagando il 70% di tasse, devo pagare l'autostrada, il medico e tutto, non mi rimane niente. Qui si va alla guerra, ragazzi. E poi la concorrenza: volete dire via se municipalizzate? Queste municipalizzate è una concorrenza falsa, finta, cioè non crea liberismo, non crea lavoro. Grazie Paolo. Aggiungo una piccola cosa. Io non crede che alla prima parte della domanda di Paolo, non crede che se si fosse andati al voto vi sareste evitati voi come Partito Democratico, come centrosinistra, il ritorno di Silvio Berlusconi? Cioè a quel punto era finito il cavaliere. Ma insomma, questa è una domanda che viene fatta, mi lo fa adesso l'elettore di centrodestra, me lo fanno anche quelli ogni tanto di centrosinistra. Insomma, partiamo dal presupposto che noi siamo gente, io stesso, insomma, noi, tanti di noi, gente che ha governato, ha sempre governato nella vita, e quindi tende a conoscere un po' le cose, a guardarle un po' sul serio. Ecco, noi in quei mesi eravamo veramente sull'orlo della Grecia, veramente. Noi, insomma, non ce la siamo sentita di giocare una carta elettorale pur vincente per noi in una situazione che avrebbe portato il paese a un disastro. Io penso, rispondo così all'ascoltatore, che quando uno in coscienza ritiene di aver fatto quel che serve al suo paese, deve sentirsi a posto, al di là di interessi di partito. E quindi io non mi pento affatto di quella scelta, non mi pento affatto, ci ha portato dei problemi certamente, ma non mi pento affatto di quella scelta. Su altre cose che adesso l'ascoltatore diceva, Veda, se noi continuiamo ad andare avanti con l'idea, e qui riprendo una metafora che ho rubato al segretario dell'SPD tedesca, che è meglio avere un passero in mano che un piccione sul tetto, e cioè condoni, prendiamo qualcosa, quello che arriva sarà sempre in più. Noi non usciremo mai da questa spirale. Prendiamola da un altro lato. Mai più un condono. Mai più un condono. Noi non abbiamo mai fatto un condono. Lavoriamo senza essere per la fedeltà fiscale. Se la Banca d'Italia ci dice che noi perdiamo 100 miliardi di entrate in fedeltà fiscale, ci sarà un modo per ridurre un po' quel carico del 70% che l'ascoltatore lamenta? Ci sarà il modo di dire a un certo punto, tenendo a bada la spesa, che ogni euro che ricaviamo dalla fedeltà fiscale lo mettiamo a riduzione delle tasse per chi le paga? Ci sarà questo sistema? Se non cominciamo mai, non arriviamo mai. Se la gente pensa che ci sarà sempre un condono, se porti i soldi fuori, oppure se non paga le tasse, eccetera, ma quando mai ne usciamo noi? Sono 15 anni, 20 anni, 3 che ci raccontiamo questa cosa qua e stiamo sempre peggio da questo lato. Convinciamoci di questo, ecco, questo è l'appello che faccio. Sulle municipalizzate, io credo che ci sia un elemento di verità in quel che dice l'ascoltatore. Bisogna creare ovunque situazioni di mercato. L'Europa ci dice, e ha ragione di dircelo, che non è la concorrenza non dipende dal tipo di proprietà di un'azienda, no? Ecco. Che ne so, le ferrovie dello Stato sono una proprietà pubblica, pur in qualche modo abbiamo aperto, io stesso ho aperto la presenza di altri attori privati sui binari, poi là ci sono problemi da regolare, per l'amor di Dio, e però insomma ci deve essere qualcuno che guarda che la situazione di concorrenza ci sia. Mi rendo conto che questo non avviene in tante parti del paese e questo è uno degli elementi da considerare anche quando si parla di liberalizzazione. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, cari ascoltatori, brevemente sul filo della battuta ci segnalano che in realtà la metafora del leader dell'SPD era col tacchino sul tetto, non col piccione. No, perché mi hanno fatto notare dopo, dice, ma come diavolo fa un tacchino andare sul tetto? Allora la volta che l'ho rivisto, Gabriel, gli ho detto, ma Sigmar, ma come fa un tacchino andare sul tetto? E lui dice, no, ma guarda che era un piccione. Quindi traduzione sbagliata. Veniamo a quello che le dicevo prima della pausa. Ieri la dichiarazione di Sergio Marchionne a proposito della vicenda della cassa integrazione a Melfi per la ristrutturazione dell'impianto, dice: le dichiarazioni dei politici in merito a questa vicenda sono oscene. Un suo giudizio, una sua valutazione. Ma io non lo so quali politici. Provi Marchionne obiettare quel che ho detto io ho detto, si può perfettamente capire che chi deve mettere giù delle nuove linee proponga della cassa integrazione. Ho aggiunto, se fossi il governo, comunque, davanti a una richiesta così impegnativa e significativa, chiamerei Marchionne per capire precisamente che cosa succede in termini di investimenti in quello stabilimento e in altri. Domando, è sbagliato? È una cosa ultronea rispetto a quello che succederebbe, che ne so, negli Stati Uniti? O in Francia? O in Germania? O ovunque? Ecco, punto, tutto qua. Quindi cerchiamo di rispettarci tutti quanti, ma insomma, e di non lanciare parole a vuoto, questo dal lato della politica, dal lato dell'impresa, perché qui c'è di mezzo un pezzo del futuro di questo paese. Non stiamo parlando di noccioline quando parliamo di industria automobilistica. Naturalmente, non stiamo parlando di noccioline nemmeno quando parliamo di industria in generale. Tra i nostri ascoltatori ci sono anche, oltre, molti piccoli imprenditori che lamentano, e ne abbiamo raccontato tantissimo in questa radio, anche con l'iniziativa Disperati Mai, che raccontano di avere molti problemi, naturalmente. Cioè la crisi si è fatta sentire in maniera fortissima. Alcuni sono stati spinti naturalmente a gesti estremi. Lei parlava di riequilibrio fiscale dal lato del lavoro, forse ci vorrebbe un riequilibrio fiscale anche per piccole e medie imprese. Ma insomma, questo è il punto più preoccupante della vicenda italiana. Noi abbiamo una riduzione della capacità produttiva che è fatta largamente di piccole imprese e bisogna vedere se siamo in una fase, come dire, di crisi momentanea, di passaggio, siamo di fronte a una riduzione strutturale. Noi nel campo industriale, per esempio, perdiamo 20 punti di produzione dal 2007 ad oggi e questo significa tantissime piccole imprese, non è che stiamo parlando in Italia di grandi imprese. Abbiamo consumi bassissimi e quindi problemi dei servizi, aziende che chiudono, l'edilizia che è bassa, troppo bassa. Morale, i pagamenti ancora non girano, lo Stato non riesce a pagare, le banche sappiamo bene come sono messe, che cosa fanno, che cosa possono, devono fare. Mi permette un attimo se la interrompo, segretario, perché vedo qua che abbiamo una telefonata in tema, credo, che è Arnaldo e ci chiama dalla provincia di Rovigo. Buongiorno. Prego. Sì, buongiorno, sono Arnaldo, parlo dalla provincia di Rovigo e esattamente da Ariano Polesine. Innanzitutto volevo salutare l'onorevole Bersani e per me è un onore questa mattina poter parlare con l'onorevole Bersani. Però diciamo così, adesso vado giù duro. Onorevole, i nostri imprenditori veneti fanno fatica ormai a tenere, lei chiama la barra, la nostra barra facciamo fatica a tenerla soprattutto sui mercati esteri, anche e soprattutto perché grazie anche, oserei dire, al suo contributo, perché anche lei è 20-30 anni che è lì, abbiamo delle tassazioni paurose che si avvicinano ormai a 60, forse anche di più. Noi che abbiamo imprenditori che sanno produrre eccellenza e che tutto il mondo ci invidia e guardi bene, ci compra. In questi ultimi periodi vanno molto movimenti territoriali sul nostro territorio, in particolar modo uno da ultimo che è nato, Indipendenza Veneta. Lei quando parla di affrontare le tematiche e rimanere in un contesto democratico, lei ritiene opportuno che un territorio sia tassato? Non esiste al mondo paese democratico che tassi un territorio come quello veneto con delle cifre oltre 60%. Onorevole Bersani. Arnaldo, io la ringrazio, la tassazione non è un problema solamente dei veneti, però mi sembra che al di là di Indipendenza Veneta, e che poi veniamo di capire se questo è un filo di propaganda, però al di là di Indipendenza Veneta, vogliono una risposta concreta. Ci dica due o tre cose molto brutalmente e molto semplicemente che si possono fare da questo lato. Ma insomma, intanto c'è il problema fiscale, ovviamente. Adesso vorrei ricordare all'ascoltatore che questi che dicono che bisogna tagliare subito, si può, eccetera, parliamo di Berlusconi, nell'epoca di questi ultimi anni, i governi di Berlusconi, la pressione fiscale è metà di 4 punti, virgola qualcosa, quindi cerchiamo di capirci anche su quello. È pesantissima, sì, perché, ripeto, non le pagano tutti le tasse. C'è questo problema, bisogna partire, avere ogni margine per alleggerire chi investe per dare lavoro. Io credo che noi dobbiamo preoccuparci di questo. L'impresa che dà lavoro, l'impresa che investe, l'impresa che fa ricerca, l'impresa che si internazionalizza. Certamente per quella parte in cui investe l'impresa, per quella parte che mette in questa scommessa, deve avere un aiuto, questo certamente sì. La seconda cosa che c'è da dire però è che bisogna animare un po' l'economia e suscitare anche delle linee di investimento che ingaggino sia il pubblico e sia anche il risparmio familiare. Bisogna trovare delle chiavi per muoverla un po' questa economia. E quindi, per esempio, noi dobbiamo ricavare una quota di investimenti pubblici che vadano più direttamente, immediatamente, sono 3 anni che lo diciamo, immediatamente in circuito, per esempio usando i comuni per fare un po' di piccole opere in giro questo paese, l'edilizia è troppo bassa, così come meccanismi tipo quelli che hanno funzionato, tipo quelli per ristrutturazione edilizie, no? Che incoraggino il fatto, attorno alla casa prevalentemente resta questa cosa, che un risparmio privato possa muoversi in termini di investimento, dare un po' di lavoro, è un'altra cosa importante. Poi io credo che il punto di fondo per ridare fiato al nostro sistema dell'economia reale, eccetera, sia veramente la possibilità di trovare anche strumenti di finanza per reggere un po' le avventure industriali. E qui io vorrei capire se fra sistema bancario, cassa, depositi e prestiti, non si può trovare un qualche strumento, che invece io, sa, quando sento dire il fondo strategico, ma cosa c'è di strategico in Italia più del fatto di riprodurre sistemi di imprese anche piccole e medie però in grado di internazionalizzarsi? Cosa c'è di più strategico se non riuscire a dare al mondo quel che il mondo chiede? Il mondo vuole Italia, vuole prodotto italiano, lo vuole, noi dobbiamo darglielo. Sempre nuovo, sempre sul fronte delle migliori tecnologie, con capacità di internazionalizzazione, e questa struttura della media impresa, delle filiere, dei network, delle reti, delle cose che consegnano al mondo e all'Italia un made in Italy tecnologico nella meccanica, in tutti i nostri campi, va supportato da un qualche strumento finanziario più forte, più significativo. Questi sono alcuni elementi. Rimodulare e modificare la perversa IRAP rientra... Sì, quando si dice lavoro, cioè bisogna, perversa IRAP bisogna alleggerirla sempre quando si trovano i margini per questa operazione, ma stiamo parlando di priorità sul lavoro e io intendo questo. Per esempio, la quota lavoro sull'IRAP va ridotta, va abbassata, va progressivamente sterilizzata. Veniamo adesso a qualche tema più relativo alla questione delle alleanze, a come sta andando questa campagna elettorale, e lo facciamo con una domanda della nostra collega che sta sempre in prima linea alla Camera, la nostra Elisabetta Fiorito, che insomma ha una domanda in merito alla questione della politica cabaret. Sentiamo. Segretario Bersani, lei contesta una campagna elettorale fatta di cabaret, ma essere andato da Vespa il giorno in cui Silvio Berlusconi andava da Santoro non è come andare in pizzeria, invitare gli amici quando la nazionale gioca e poi lamentarsi perché nessuno viene? Ah, qua siamo al livello delle sue metafore, segretario, prego. Ma guardi, adesso si può anche non credermi, ma io sono talmente imperfetto da questo lato che... Io non riesco a guardare, a considerare se intanto che io sono da Vespa, un altro da Santoro, se intanto che vado da uno, dall'altro canale c'è la partita, tutte cose. Perché ritengo le presenze televisive molto importanti, ma non la chiave. Oggi ho visto una statistica dove dice che Berlusconi c'è stato nelle TV 63 ore, Monti 62 e io 28. Sono per la modica quantità, perché i cittadini non possono pensare che si viva solo attorno alla TV, perché non lo pensano. Io voglio anche poter andare in giro un po', guardare un po' la gente in faccia, e se sto tutti i giorni in TV non riesco a farlo, ecco, perché in TV poi cerchi di dire quel che sai, che fai, ma la formazione professionale per la politica si fa sul territorio, non si fa in TV, per me. E un politico deve sempre stare in formazione. Io la penso così e quindi mi comporto così. Ecco, poi gli altri facciano come ritengono. 9 in punto. Siamo quasi agli ultimi minuti col segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani. Quando parla di partiti personali come un tumore, si riferisce anche alla lista di Monti? Ma qualcuno ha lamentato che ho usato una parola troppo forte, una metafora troppo violenta, può darsi questo. Anche se devo notare che sono 3 anni che dico questa cosa, è la prima volta che la vedo sbucare sui giornali. Io ritengo questo nei problemi basici del nostro paese, che ci differenzia da tutte le altre democrazie. Sì, io mi riferisco al fatto che c'è una tendenza reiterata in Italia negli ultimi 20 anni a costruire formazioni politiche attorno a delle persone più o meno brave, più o meno gradevoli, per amor di Dio. Io sono l'unico che non mette il nome sul simbolo, avendo essendo stato indicato da primarie a cui hanno partecipato 3 milioni e 200 mila persone. Ci scrivono vari ascoltatori su Twitter, ecco. Dicono però la faccia c'è sui manifesti. La faccia deve esserci, ma in tutti i paesi del mondo c'è la faccia. Ci sono dei leader che si presentano come leader e come tuttavia un risultato di un collettivo che rimane a prescindere dal leader. Via la faccia di Bersani, ci sarà un'altra faccia, ma espressione di un partito nuovo, aperto finché si vuole, ma di un partito che garantisce linea politica, stabilità, riforme, visibilità. I partiti personali danno instabilità e rigidità. E lasciatemi fare un esempio, non sto dicendo una cosa da poco, sto dicendo una cosa drammatica. Per esempio, era già chiaro da 2 anni, 1 anno e mezzo, era chiaro l'establishment mondiale, italiano e perfino ai componenti del centrodestra, che la leadership di Berlusconi e il governo di Berlusconi non reggevano davanti al problema. Siamo dovuti arrivare sull'orlo del precipizio per cambiare le cose. Perché? Perché i partiti personali, quando uno è inchiodato, non si sa come muoverlo, perché non hanno una vita democratica. E quindi, come ci ha sempre detto Amartya Sen, la democrazia aiuta l'economia e la società perché ti mette in condizione di correggere gli errori per tempo. Se i partiti non hanno un meccanismo democratico, producono una democrazia ingessata. Attenzione, è un problema serio. Tant'è vero che in tutte le democrazie del mondo ci sono le facce dei leader sui manifesti, ma in nessuna democrazia del mondo c'è il nome del leader sul simbolo della formazione politica. Ecco. Brevissimamente, segretario, un paio di domande molto molto, le chiedo risposte molto molto brevi. La prima è su questo accordo con Monti, c'è oppure no? Ma no, io non so perché si scrivono delle cose, insomma, c'è una, naturalmente una civiltà di discussione, ci sono ancora in corso delle scelte di governo da fare, c'è il Mali, c'è il bilancio europeo, sono queste cose. Movimenti di prefetti, eccetera. E dopodiché, sul piano della civiltà politica, ciascuno ha le sue posizioni. Io ho delle posizioni critiche, lui ha delle posizioni critiche, e si farà la campagna elettorale così. A proposito di Mali, classico problema da governo di centrosinistra, lei ce le manderebbe le truppe in una situazione di questo genere? Ma qui non si tratta di mandare truppe, però si tratta di capire. Però, qui abbiamo 5.000 chilometri nel sub-Sahara che praticamente o sono in instabilità o sono in mano a nessuno. Ci si sta infilando una formazione aggressiva jihadista, lì dentro, oltre a formazioni jihadiste, ci sono formazioni che organizzano il canale di transito della droga, lo sa tutto il mondo, il Consiglio di Sicurezza è unanime, bisogna fermare questa cosa, i francesi sono intervenuti mentre i jihadisti stavano prendendosi sostanzialmente la capitale del Mali. Qui in Italia non se ne parla, perché tanto noi abbiamo talmente abbassato il profilo del nostro paese che non parliamo più di politica internazionale. Non lo so, in Pakistan la Corte Suprema decide l'arresto del Premier, non lo vedo, non lo leggo in questo paese. Abbiamo abbassato troppo il nostro profilo, quindi il Mali, l'Europa. Non è che possiamo lasciare solo la Francia davanti a un problema di questo genere. L'Europa si decida come fare, abbiamo Prodi che è inviato dell'ONU nell'area, pacifista assoluto che tuttavia ha detto questo intervento ci voleva perché se no si perde totalmente il controllo della situazione davanti a formazioni sanguinarie e aggressive, e quindi l'Europa che riprende un po' in mano il bandolo di questa matassa. Naturalmente l'uso della forza, della presenza militare deve essere solo prodromico, deve essere l'anticamera di una discussione diplomatica, politica, che riesca a stabilizzare l'area, perché quell'area lì, se è instabile, poi si riverbera sul nord dell'Africa, sulle primavere islamiche, cioè arabe, e può portarci un islamismo aggressivo e anche formazioni, ripeto, non jihadiste, ma formazioni che hanno altri scopi, al comando di interi pezzi dell'Africa. Cosa non può essere accettate. Ultima domanda brevissima, abbiamo un paio di minuti. Le candidature di quelli che alcuni hanno definito gli impresentabili, in realtà sono candidature dubbie di persone sulle quali pendono inchieste giudiziarie. Oggi ci sono i garanti del partito che decidono, però una valutazione politica, segretario, gliela devo chiedere da questo lato. La valutazione politica è molto semplice. Intanto noi non accettiamo tribunali improvvisati, sia chiaro. Noi abbiamo dei codici che sono più rigorosi delle leggi dello Stato sull'incandidabilità in questa cosa. Quindi abbiamo dei nostri strumenti, sono il Comitato dei Garanti, che noi abbiamo presieduto Luigi Berlinguer, che ha sempre lavorato ottimamente, sta lavorando in queste ore, e lì ci sarà l'indicazione fondamentale. Detto questo, io ripeto, noi siamo un grande partito, e qui vado al di là delle candidature, adesso parlo di discorso in generale, siamo un grande partito radicato ovunque in questo nel territorio del paese, mettiamo in moto meccanismi anche spontanei tipo le primarie, quindi io lo dico anche per il futuro, io non posso garantire che non emergano dei problemi, io posso e devo garantire che noi sappiamo come risolverli e come affrontarli, questo sì. Grazie dunque al segretario del Partito Democratico e candidato premier, insomma capo della coalizione di centrosinistra, per Luigi Bersani, per essere stato con noi. Un grazie ad Alessandro in regia, Gloria Guerrera in redazione. Grazie ancora per il supporto alla nostra Elisabetta Fiorito, e ci risentiamo domani, se volete, con Voto Antonio dopo il GR delle 9.